Salve cari amici di Radio Big World, anche oggi parleremo di un argomento che può richiamare l'attenzione sul comportamento della nostra vita e esprimeremo i nostri punti di vista sull'egoismo. Allora cominciò la mia storia di egoista. Quando mio padre riversò nella vagina di mia madre i suoi spermatozoi, che mescolandosi agli ovociti diedero inizio a una nuova vita, la mia. Crebbi nella pancia di mia madre, da lei volevo tutto, il suo sangue. Poi mi aiutarono a nascere e allora con un acuto pianto dissi a tutti che i miei polmoni volevano l'aria e da quel giorno ho avuto la mia parte di aria del pianeta Terra. Poi imparai il dolce piacere di suggere il latte e per mesi mi attaccavo al capezzolo di mia madre, egoista io, tiravo fin tanto che il latte finiva o la mia pancia era sazia. Poi da bambino mi ero convinto che tutto mi fosse dovuto e chiedevo con insistenza fino a ottenere quanto desiderato. Crescendo mi sono avvisto che attorno a me vivevano altre persone ed esse, come me, volevano tante cose e non sempre io e loro riuscivamo a ottenerle. Le cose che desideravamo. Allora ho capito che desideravo tanto, desideravo anche cose di altri e non ottenerle mi creava sofferenza. Volevo la bici come quella di Pietro, il giocattolo meccanico che costava più di quanto i miei genitori si potessero permettere. Volevo la fidanzatina che invece era già impegnata con un altro, volevo i più bei voti a scuola, ma studiavo poco. Ho capito allora che desiderare non corrispondeva ad avere. Invece del pregiato giocattolo meccanico, mi sono dovuto contentare del fucile a elastici, costruito insieme a mio padre. Per prendere un buon voto ho dedicato più tempo allo studio, per la fidanzatina già impegnata con un altro ho corteggiato la Giusy invece della bionda con i lunghi capelli che mi piaceva tanto. Insomma, come si dice, ho aggiustato il tiro e così sono cresciuto. E ancora, quando qualcosa mi va storto, aggiusto il tiro e ne prendo alto. Anche se talvolta faccio come la volpe nella favola di Esopo, la favola della volpe e l'uva. Non è ancora matura, diceva la volpe guardando l'uva che voleva prendere perché golosa. Ma l'uva era matura, era troppo alta e la volpe non ci arrivava a prenderla. E allora diceva, non è ancora matura. E così io, da egoista, tante volte dico dell'uva, non è ancora matura, ma in realtà non rientra nelle mie capacità di arrivarla. Mentre nell'infanzia e nella prima giovinezza l'egoismo è indispensabile per sopravvivere, considerato che non è molto sviluppata la dimensione sociale di ogni individuo, quando si acquisisce la maturità, il gretto egoismo non ha più giustificazione per continuare a esistere. Come si potrebbe concepire che gli altri accondiscendessero a realizzare i nostri interessi se noi non siamo disponibili ad attuare i loro. Deve cambiare qualcosa. Dall'egoismo, secondo me, si deve passare alla solidarietà, che se vi interessa tratteremo in una prossima conversazione. Per allargare la nostra comprensione dell'egoismo, ascoltiamo ora la poesia di Iria Lari che tratta questo argomento. Vi saluto e alla prossima, se volete di nuovo interloquire con questa rubrica che si chiama Mescolare, quindi mescolare acqua e vino. Ciao ciao! Buongiorno, io sono Iria Lari, vi leggerò la preghiera dell'egoista. O Signore, ti prego, fa che tutti abbiano una casa, così che non vengano a chiedermi la mia. Fa che non ci siano più guerre, così che io e la mia famiglia possiamo essere al sicuro. Fa che tutti abbiano cibo in abbondanza, così che non ne venga io privato. Fa che per tutti ci sia il lavoro, così che io non sarò licenziato. Fa che tutti siano trattati con giustizia, affinché nessuno vorrà vendicarsi anche su di me. E perdona coloro che peccano di egoismo.